Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Seth e Paul D. salirono le scale bianche non proprio di fretta, ma senza neppure perder tempo. C'erano due stanze. Lei lo condusse in una di queste, sperando che lui le perdonasse il fatto di non essere preparata. Anche se ricordava il desiderio, aveva dimenticato come funzionava. Aveva dimenticato la forza e l'abbandono che risiedevano nelle mani. Aveva dimenticato che la vista si trasformava in una sorta di cecità, in modo che all'occhio balzavano solo i posti in cui potersi stendere. E come tutto il resto, le maniglie, le cinture, i gancetti, la tristezza rannicchiata negli angoli, il passare del tempo, costituisse un'interferenza. Prima ancora che riuscissero a svestirsi del tutto, era già finita. Ora se ne stavano sdraiati, l'uno accanto all'altra, mezzi vestiti, col fiato corto, irritati l'uno con l'altra e con il chiarore del cielo sopra di loro. Lui l'aveva sognata per troppo tempo e da troppo tempo. Per lei l'astinenza aveva voluto dire essere del tutto priva di sogni propri. Ora erano dispiaciuti e troppo timidi per parlarne. Seth stava distesa supina e aveva la testa voltata dall'altra parte. Con la coda dell'occhio Paul D. scorgeva i suoi seni tondi e appiattiti. Lo spettacolo non gli piacque, flaccidi com'erano. Avrebbe potuto benissimo farne a meno, non importa se prima di sotto li aveva sorretti come se fossero stati la parte più preziosa di se stesso. E il labirinto di ferro battuto che aveva esplorato in cucina come un cercatore d'oro intento a palpare la ghiaia della miniera, in realtà era un ammasso rivoltante di cicatrici. Non era un albero, come pretendeva lei. Forse ne aveva la forma, ma non aveva niente a che vedere con gli alberi che conosceva lui, poiché gli alberi erano cose invitanti, di cui ci si poteva fidare, a cui si poteva stare vicini, a cui si poteva parlare, se si voleva. Paul D. si mise a guardare fuori della finestra, sopra la punta dei piedi, tenendo le mani dietro la nuca. Con il gomito sfiorò la spalla di Seth. Il lieve contatto della stoffa sulla pelle la fece sussultare. Aveva dimenticato che lui non si era tolto la camicia. Che mascalzone, pensò. Ma poi si ricordò che non gliene aveva dato il tempo, né aveva dato a se stessa il tempo di togliersi la sottoveste. E considerando il fatto che aveva cominciato a spogliarsi prima ancora di vederlo seduto sulla veranda, che già aveva in mano le scarpe e le calze e non se l'era più rimesse, che lui, dopo aver visto i suoi piedi nudi, bagnati, le aveva chiesto se poteva fare lo stesso, che quando s'era alzata per andare a cucinare lui l'aveva svestita ancora, considerando la velocità con cui avevano iniziato a spogliarsi, era lecito pensare che ormai fossero nudi. Sentiva il bisogno di alzarsi, di andare di sotto e di rimettere tutto in sesto, un pezzo alla volta. Le aveva detto di lasciare quella casa, come se una casa fosse una cosetta da niente, una blusa o il cestino del cucito, di cui si poteva fare a meno o sbarazzarsi come niente fosse. Lei, che non aveva mai avuto una casa, se non questa. Lei che aveva abbandonato un pavimento di terra battuta per andare a stare lì. Lei che doveva portarsi tutti i giorni una manciata di barba di becco nella cucina di Mrs. Garner solo per riuscire a lavorarci, per sentirla in qualche modo sua, perché voleva fare il proprio lavoro con amore, eliminarne le brutture. E l'unico modo in cui le riusciva di sentirsi a suo agio a Sweet Home era quello di raccogliere qualche bel ramoscello e di portarlo con sé. Il giorno in cui se ne dimenticava era anche il giorno in cui il burro non voleva saperne di farsi, o l'acqua della salamoia nel barile le faceva venire le vesciche alle braccia. Almeno così le sembrava. It ain't nobody's business. It ain't nobody's business. It ain't nobody's business. Seth fece per girarsi a pancia in giù, ma poi cambiò idea. Non voleva richiamare su di sé l'attenzione di Paul D. così si limitò a incrociare le caviglie. Paul D., però, s'accorse dei suoi movimenti, come pure del suo diverso modo di respirare. Si sentì in dovere di provarci ancora, questa volta con più calma, però il desiderio era scomparso. A dire il vero, non desiderarla più era una bella sensazione. 25 anni e zac. Pur avendo gli occhi chiusi, Seth sapeva che lui stava scrutando il suo viso e si raffigurò il brutto ritratto che doveva fornire in quel momento. Eppure, da quel suo scrutare non le giungeva nessun segno di derisione. Era dolce, le sembrava dolce e aveva un non so che di paziente. Non la giudicava, o meglio, la giudicava, ma non faceva confronti. Dopo Hall, nessun uomo l'aveva mai guardata a quel modo, né con amore né con passione, ma con interesse, come se stesse esaminando la bontà di una spiga di grano. Hall era stato per lei più un fratello che un marito. Le sue premure facevano pensare più a una relazione familiare che alle richieste di un uomo a letto. Per anni si erano potuti vedere alla piena luce del giorno solo la domenica. Tutte le altre volte si carezzavano, si parlavano o mangiavano al buio, il buio che precedeva l'alba e la luce che seguiva il tramonto. Quindi, osservarsi con attenzione era un piacere riservato alla domenica mattina. Hall la esaminava come se volesse mettere da parte ciò che vedeva alla luce del sole per il resto della settimana, quando vedeva solo l'oscurità, e aveva così poco tempo. Dopo il suo lavoro a Sweet Home, la domenica pomeriggio c'era il lavoro per pagare il debito contratto per riscattare sua madre. Quando le aveva chiesto di diventare sua moglie, Seth aveva consentito con gioia. Poi però si era arenata, non sapendo bene quale fosse il passo successivo. Doveva esserci una cerimonia, non era così? Un predicatore, un ballo, una festa, insomma, qualcosa. Lei e Mrs. Garner erano le sole donne, perciò Seth decise di chiedere consiglio a lei. «Mrs. Garner, io e Hall vogliamo sposarci». «L'ho sentito dire», sorrise. «Lui ne ha parlato con Mr. Garner. Sei già incinta?» «No, signora». «Beh, presto lo sarai. Lo sai questo, vero?» «Sì, signora. Hall è bravo, Seth. Sarà buono con te». «Ma io però volevo dire che vogliamo sposarci». «L'hai appena detto». «E io t'ho detto che va bene. Ci saranno le nozze!» Mrs. Garner posò il mestolo. Ridacchiando le carezzò il capo e le disse: «Sei proprio una cara ragazza. Basta, nient'altro». Seth si fece un abito di nascosto e Hall appese la sua pastoia a un chiodo sulla parete della casupola di lei. E lì, sopra un materasso, sopra il terriccio del pavimento, si accoppiarono per la terza volta. Le prime due era stato nel minuscolo campo di gran turco tenuto da Mr. Garner, perché il suo raccolto andava bene per gli uomini come per le bestie. Sia Hall sia Seth avevano l'impressione di essere in un luogo appartato. Appiattiti tra i fusti che scricchiolavano tutti, non potevano vedere niente, tantomeno le cime che ondeggiavano sopra le loro teste, visibili a tutti gli altri. Seth sorrise per la stupidità sua e di Hall. Perfino i corvi lo avevano capito ed erano andati a vedere. Disincrociando le caviglie, Seth si sforzò di non scoppiare a ridere. Il salto da un vitello a una ragazza non era poi un granché, pensò Paul D. Non era quel gran balzo che Hall si era immaginato. E portarla nel campo di grano piuttosto che nella stanza di lei, a un metro dalle baracche degli altri, i perdenti, era stato un gesto di affetto. Hall voleva offrirle un po' di riservatezza e invece si erano esposti al pubblico ludibrio. A chi poteva sfuggire la leggera ondulazione di un campo di gran turco immobile in una giornata limpida e calma? Paul D. sospirò e si girò dall'altra parte. Seth colse l'opportunità fornitale da quel movimento e si spostò anche lei. I segreti di Denver erano dolci, sempre accompagnati dal profumo della veronica selvatica, finché non ebbe scoperto la colonia. La prima boccetta fu un regalo, la seconda la rubò a sua madre e la nascose tra i bossi, finché non venne il gelo e la bottiglietta si ruppe. Era stato l'anno in cui l'inverno era arrivato all'improvviso, all'ora di cena, ed era rimasto per 8 mesi. Era il periodo in cui infuriava la guerra di secessione, quando Miss Bodwin, la donna bianca, a Natale aveva portato la colonia per lei e per sua madre, delle arance per i bambini e un altro bello scialle di lana per Baby Sacks. Mentre parlava di quella guerra costellata di morti, sembrava contenta, le si arrossava tutto il volto e, pur avendo la voce bassa come quella di un uomo, profumava come una stanza piena di fiori. Una gioia che ora Denver poteva procurarsi da sola tra i bossi. Dietro al 124 c'era uno stretto campo che si arrestava al limitare di un bosco. Oltre quel bosco scorreva un torrente. Nel bosco, tra il campo e il torrente, celati dalle querce, c'erano 5 arbusti di bosso piantati in cerchio che avevano cominciato a protendersi l'uno verso l'altro a 1 metro dal suolo per formare così una stanza circolare vuota, alta 2 metri, le cui pareti, spesse 1 metro, erano composte di foglie piene di sussurri. Chinandosi per bene, Denver riusciva a infilarsi in quella stanza e, una volta dentro, poteva ergersi in tutta la sua altezza, avvolta da una luce color smeraldo. Protetta dal velo di quelle pareti verdi e vive, Denver sentiva di possedere maturità e lucidità, e per trovare la salvezza le bastava solo desiderarla. Una volta, un giorno d'autunno, assai prima che Paul D si stabilisse con sua madre, Denver si trovava tra quei bossi e all'improvviso aveva sentito freddo a causa del vento, a cui si era aggiunto il profumo della sua pelle. Si era rivestita, si era chinata per uscire di lì e, rialzandosi, si era trovata nel bel mezzo di una nevicata. Attanagliata dai brividi, Denver si era avvicinata alla casa e la osservava, al solito, come se fosse una persona anziché un semplice edificio. Una persona che piangeva, sospirava, tremava e cadeva in preda alle convulsioni. I suoi passi e il suo sguardo sembravano quelli di una bambina che stesse avvicinandosi cautamente a un parente nervoso e pigro, incapace di stare da solo, però orgoglioso. Una corazza oscura nascondeva tutte le finestre, tranne una, la stanza di Baby Sacks, da cui proveniva un pallore luminoso. Quando Denver guardò dentro, vide sua madre in ginocchio, intenta a pregare, cosa non insolita. La cosa insolita, anche per una ragazza che aveva sempre vissuto in una casa popolata dalla viva presenza dei morti, era il vestito bianco che stava inginocchiato accanto a sua madre e che le teneva una manica attorno alla vita. E fu proprio la tenerezza di quell'abbraccio che fece ricordare a Denver i particolari della sua nascita e, oltre a quello, la neve leggera e sferzante che l'avvolgeva, simile al frutto dei fiori di campo. Il vestito e sua madre, insieme, davano l'impressione di 2 donne adulte, con una, il vestito, che assisteva l'altra. Quando aprì la porta, Seth stava giusto uscendo dal soggiorno. «Ho visto un vestito bianco che ti stava attaccato addosso», disse Denver. «Un vestito bianco? Forse era il mio abito nuziale. Prova a descrivermelo un po'. Aveva un collo alto, un sacco di bottoni dietro che arrivavano fin giù». «Bottoni? Beh, non era il mio abito. Non ho avuto mai niente coi bottoni. E nonna Baby? Seth scosse il capo. Non era capace di usarli, nemmeno sulle scarpe. Che altro? Un rigonfiamento di dietro. Dove ci si siede? Una crinolina? Aveva una crinolina? Non so come si chiama. Un po' increspata, dietro, sotto la vita. Un bel vestito da signora, di seta? Di cotone, mi sembra. Era filo di Scozia, probabilmente. Del cotone bianco di filo di Scozia. Hai detto che mi stava attaccato. Come? Come te. Stava proprio come te. Era inginocchiato vicino a te mentre pregavi. Ti teneva il braccio attorno alla vita. Ah, sì? Per che cosa pregavi, signora? Non pregavo per qualcosa. Non prego più. Parlo solo. Di che cosa parlavi? Non puoi capire, piccola mia. Sì che posso. Parlavo del tempo. A me riesce così difficile crederci. Certe cose passano e se ne vanno, altre restano. Pensavo che era colpa della mia memoria. Lo sai, no? Ci sono delle cose che si dimenticano e altre che non si dimenticano mai. Ma non è così. I posti sono sempre lì. Se il fuoco brucia una casa, la casa sparisce, però il posto, l'immagine del posto, rimane. E non solo nella mia memoria, ma fuori, nel mondo. Quello che mi ricordo è un'immagine che ondeggia fuori della mia testa. Mi spiego. Anche se non la penso, anche se muoio, l'immagine di quello che ho fatto, che ho saputo, che ho visto, è sempre lì, proprio nel posto dove è successa. «Quest'immagine la possono vedere anche gli altri?» chiese Denver. «Oh sì, sì sì, e come? Un giorno ti ritroverai che cammini per strada e sentirai o vedrai che sta succedendo qualcosa. Un'immagine chiarissima. E tu pensi che sei tu che lo pensi. Un'immagine del tuo pensiero. E invece no. Questo succede quando si incappa nel ricordo che appartiene a qualcun altro. Lì, dove stavo prima di venire qua, quel posto esiste nella realtà. Non andrà mai via. Anche se sparisce tutta quanta la fattoria, fino all'ultimo albero e all'ultimo filo d'erba, l'immagine è sempre lì. E cosa più importante di tutte, se lì ci vai tu, tu che non ci sei mai stata, se vai lì e ti metti nel posto dove era prima, succederà di nuovo. È lì per te che ti aspetta. Perciò, Denver, non andarci mai, mai. Perché anche se tutto finito, morto e sepolto, è sempre lì che ti aspetta. Ecco perché mi sono dovuta portare via di lì i miei figli, a tutti i costi. Denver si rosicchiava le unghie. Se è ancora lì che aspetta, questo vuol dire che non muore mai niente. Seth guardò Denver dritta negli occhi. No, non muore mai niente, le rispose. Ancora non mi hai raccontato tutto quello che è successo. So solo che ti hanno frustata e che sei scappata via incinta di me. Non c'è più niente da raccontare. Solo del maestro. Era un ometto basso. Aveva sempre il bavero, anche nei campi. Un maestro, diceva lei. Il fatto che il marito della sorella di suo marito avesse una cultura e che fosse disposto a occuparsi di Sweet Home dopo la scomparsa di Mr. Garner, la faceva sentir bene. Ce la potevano fare tranquillamente gli uomini da soli, anche dopo la vendita di Paul F. Ma era come diceva Hall. Mrs. Garner non voleva essere l'unica persona bianca della fattoria. E una donna, per di più. Così lei era contenta che il maestro avesse deciso di venire. Si era portato dietro due ragazzi, figli o nipoti, questo non lo so. Lo chiamavano Onca ed erano garbati tutti quanti, parlavano piano e quando sputavano, sputavano nel fazzoletto, proprio educati, in tutti i sensi. Lo sai, no? Sono quelli che sono in confidenza con Gesù, ma per educazione non lo chiamano mai per nome, nemmeno in sua presenza. Come agricoltore era discreto, diceva Hall. Non era forte come Mr. Garner, però era abbastanza sveglio. Gli piaceva l'inchiostro, come lo facevo io. La ricetta era della padrona, però lui lo preferiva come lo mescolavo io. E per lui era importante, perché la sera si metteva lì a scrivere il suo libro. Era un libro su di noi, ma noi allora non lo sapevamo. Si pensava che fare domande era proprio il suo modo di fare. Aveva cominciato a portarsi in giro un quaderno e ci scriveva sopra quello che dicevamo. Ancora adesso credo che siano state quelle domande a fare a pezzi Sixo, a farlo a pezzi una volta per tutte. Si interruppe. Denver sapeva per esperienza che sua madre aveva finito di parlare, almeno per il momento. Quel suo lento ammiccare, il labbro inferiore che saliva piano fino a coprire quello superiore, e poi quel suo sospirare col naso, come se volesse spegnere una candela. Tutti i segni che stavano a indicare che Seth era arrivata a un punto oltre il quale non sarebbe andata. «Beh, secondo me la bambina ha dei progetti per la testa», disse Denver. «Che progetti?» «Non lo so, però il vestito che ti stava aggrappato significherà pure qualcosa». «Forse», disse Seth, «forse ce li ha davvero dei progetti per la testa». Quali che fossero questi progetti, Paul D li aveva mandati all'aria una volta per tutte. Con un tavolo e con la sua forte voce maschile aveva liberato il 124, che d'ora in avanti non sarebbe più stato l'attrattiva del posto. Denver aveva imparato a proprie spese a essere fiera del biasimo che la gente di colore riversava nei loro confronti. Fiera delle loro congetture sul fatto che la casa fosse infestata da uno spirito maligno non ancora sazio. Nessuno di loro capiva la gioia incredibile che derivava da quell'incantesimo. Non supporre le cose che si celavano dietro le cose, ma conoscerle davvero. Anche i suoi fratelli l'avevano capito, però ne avevano avuto paura. Nonna Baby l'aveva capito, però la cosa la rattristava. Nessuno sapeva apprezzare del tutto la sicurezza che procurava la compagnia di un fantasma. Neanche a Seth piaceva. Lei lo dava per scontato, come se si fosse trattato di un cambiamento improvviso del clima. Adesso però se n'era andato, cacciato via dalla rabbia e dalle grida di un uomo dalla pelle color nocciola. Aveva lasciato il mondo di Denver senza vita. O quasi, se si eccettuava il capanno tra i boschi, alto 2 metri, di color smeraldo. Sua madre aveva dei segreti, cose che non voleva raccontare a nessuno, cose che raccontava a metà. Ebbene, anche Denver li aveva. E i suoi segreti erano dolci, dolci, come il profumo della colonia al mughetto.